Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. In primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini, sono le 7:34 minuti, vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani e lo facciamo come sempre a partire dal Sole 24 Ore. Visco, economia meglio del previsto, questo è il titolo di apertura. Banca Italia migliora le previsioni di crescita del terzo trimestre, più 12%. Il governatore dice 2 anni però ci vorranno per tornare al pre-Covid, usare al meglio i fondi dell'Unione Europea. Nel terzo trimestre l'economia italiana, leggiamo un po' più nel dettaglio, va meglio delle previsioni, appunto c'è un 12% come dato, lo spiega il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il risultato del PIL italiano del terzo trimestre che verrà diffuso a fine mese sarà superiore alle stime. Tuttavia, nonostante la ripresa, serviranno almeno 2 anni per tornare ai livelli di economia pre-Covid, spiega Visco, che aggiunge bisogna ben utilizzare le risorse del Recovery Fund investendo su innovazione, tecnologia ed educazione. Ne scrive poi Davide Colombo nelle pagine interne, invece in prima troviamo al centro pagina come fotonotizia il tema vino. Sabato c'è sempre l'approfondimento del Sole 24 Ore su food e agricoltura. Il vino e le strategie anticrisi. Dal Lambrusco ai Toscani i consorzi uniscono le forze. Nel settore vitivinicolo, si legge, si stanno diffondendo strategie che portano ad aggregazioni, a volte anche tra concorrenti storici. L'obiettivo è riuscire ad affrontare meglio l'attuale crisi dei mercati e unire le forze per accedere ai mercati internazionali. Il caso del Lambrusco, nella zona Modena e Reggio, i consorzi si sono uniti in un solo ente di tutela. Ovviamente si parla poi della manovra, di cui abbiamo detto molto anche nel nostro GR24, manovra 5 miliardi di nuovi aiuti e un DL per i fondi non spesi. C'è poi un'intervista a Riccardo Di Stefano, che è il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, che dice la CIG diventi strumento per il lavoro attivo. Tutta la questione poi delle nuove restrizioni compare su Sole 24 Ore per l'emergenza del Covid, per questa nuova fiammata di contagi. Beh, sul Sole è approfondita ovviamente con un taglio più economico, con anche studi e analisi su quanto può significare questo per il mondo dell'economia e del lavoro italiano. Corriere della Sera, lotta al virus, stretta del governo, questo è il titolo di apertura. C'è il vertice a Palazzo Chigi nella notte, le misure vanno dal coprifuoco parziale alle limitazioni per lo sport. Ci sono poi sul Corriere della Sera anche i dettagli delle misure che entrano in vigore in Lombardia nello specifico. Che cosa cambia per scuola, attività fisica e bar? La nuova ordinanza della Regione Lombardia cerca di arginare i contagi, entra in vigore da oggi. I bar dalle 18 potranno restare aperti solo con il servizio ai tavoli, in ogni caso per tutti chiusura alle 24, così come i ristoranti. Nuove regole per lo sport, sospese le attività dilettantistiche a livello regionale e locale, compresi gli allenamenti, restano aperte le palestre. Le scuole superiori dovranno organizzare le attività didattiche con modalità a distanza alternate ed attività in presenza. Questo per quello che riguarda la Lombardia. Sappiamo che ciascuna regione ha poi un'autonomia decisionale, molto si è discusso di quello che ha deciso il governatore De Luca per la campagna, non ci torniamo in questo momento, torniamo invece alla pagina di apertura del Corriere della Sera, terrore a Parigi, prof decapitato mostrò in classe le vignette di Charlie Hebdo, è accaduto appunto vicino a Parigi dove un professore di storia è stato decapitato all'uscita da scuola, aveva mostrato in classe queste caricature ormai famigerate di Charlie Hebdo su Maometto, l'omicida è un ceceno di 18 anni che nell'aggredirlo ha urlato come sempre fanno questi aggressori, all'Akbar, Dio è grande, ed è stato ucciso dalla polizia, si era rifiutato di arrendersi. Si ricorda poi ancora ovviamente oggi sulle pagine dei quotidiani il dibattito dei presidenti, degli candidati presidenti degli Stati Uniti. Trump va in TV, la conduttrice lo mette in crisi. Il dibattito è a distanza tra gli sfidanti alla carica di presidente, Donald Trump e Joe Biden, ma è la conduttrice Savannah Guthrie a mettere in difficoltà Trump. Lei è il presidente degli Stati Uniti, gli dice tra l'altro, poi questa è diventata famosissima nelle ultime 24 ore, lei è il presidente degli Stati Uniti, non lo zio pazzo che può ritwittare ogni cosa. Se avremo tempo vedremo poi anche un'analisi che viene presentata dal Corriere della Sera, comunque la segnalo già, la curva delle mascherine, perché i poveri rischiano di più. È un'analisi che viene fatta da Federico Fubini sull'andamento delle vendite delle mascherine, che prova che in estate gli italiani hanno abbassato la guardia, se ne sono vendute di meno, e poi prova anche quanto costi per una famiglia acquistare tutte le mascherine necessarie, e quindi i poveri rischiano di più perché ne acquisteranno di meno. C'è poi un allarme sui prodotti fashion, mascherine fashion, un grave rischio si dice perché non a norma, non protettive quanto dovrebbero essere per garantire la salute di chi le indossa. La Repubblica titola tutta pagina, l'Italia chiude alle 22. Ieri oltre 10.000 contagi, il governo prepara un nuovo DPCM per limitare l'apertura di bar e ristoranti. Lombardia, da oggi la stretta, paura alla Camera, 3 capigruppo positivi, scontro sul voto a distanza, l'infermiera, il preside e l'autista, le storie di chi è in prima linea, queste poi le storie che vengono narrate nelle pagine interne. E poi il commissario Arcuri, dice Repubblica, attacca le regioni su terapie intensive e tamponi. Claudio Tito, vi leggo giusto l'incipit di questo suo articolo su Repubblica, una sola parola viene ripetuta dal Presidente del Consiglio e da quasi tutti i ministri, pronunciata con una punta di tremore, sottovoce in ogni riunione e colloquio riservato. Conte la scandisce persino durante il Consiglio europeo di ieri mattina. Paura. Paura che il virus riprenda e superi il vigore della scorsa primavera. Paura che i contagi tocchino la soglia fatidica e irreversibile dei 30.000 al giorno. Paura che il sistema sanitario si avviti nella drammatica spirale del collasso. Paura che si debba riprovare l'esperienza deprimente del lockdown. Paura di essere già in ritardo. Così appunto Claudio Tito. Vi leggo giusto un passaggio poi della pagina 3, ma se le valutazioni sulle esigenze di assumere provvedimenti molto più restrittivi sono sostanzialmente condivise, le distanze improvvisamente si ampliano quando le scelte riguardano concretamente i tempi e i modi di attuazione, perché la parola lockdown ha lo stesso effetto di paura. L'esperienza di 6 mesi fa si materializza sistematicamente come un incubo, è un nuovo tabù, anche se probabilmente sarà presto sfatato. Nell'attesa però la paura provoca dissensi e il lockdown genera disaccordi interventisti contro attendisti, salutisti contro sviluppisti e via dicendo. Il Partito Democratico vuole intervenire subito in maniera drastica e lo fa sapere il segretario Nicola Zingaretti, lo dice senza mezzi termini Franceschini. Così Claudio Tito su Repubblica. Vi porto sul Foglio, prima di dare spazio alla viabilità, sul Foglio per così una chiosa su questo tema di non morire di Covid, non morire di fame. Ne scrive il direttore Cerasa sul Foglio. La scuola, i trasporti, le terapie, i contagi, gli errori, l'efficienza, i soldi, l'organizzazione, il virus, il futuro, che fare? Agostino Miozzo è un nome divenuto ormai familiare all'interno del panorama scientifico italiano e un qualunque giornalista che scelga di mettersi alla ricerca di un po' di buonsenso per studiare l'evoluzione della pandemia, ieri i nuovi contagi sono stati 10.000, i nuovi ingressi in terapia intensiva 52, i morti 55, prima o poi si ritrova a digitare il suo numero e a chiacchierare con lui. Ieri è capitato anche a noi e abbiamo così approfittato del ruolo di Miozzo, che è coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e da mesi offre al governo indicazioni per provare a governare nel migliore dei modi possibili la pandemia, per ragionare sulla fase nuovamente complicata che sta vivendo il nostro paese e cercare una qualche chiave di lettura utile per leggere il nostro presente senza troppa isteria. Una chiave di lettura giusta Miozzo ce la offre pochi minuti dopo aver risposto al telefono, e seguire questo spartito ci può aiutare a capire meglio cosa può fare l'Italia per non cadere in un tranello pericoloso: mettere in contrapposizione la tutela dell'economia e il rispetto della salute. Io dico che non ci si può limitare ad ascoltare gli epidemiologi, perché è ovvio che per contenere al massimo i contagi il modo migliore è uno e soltanto uno: chiudere tutto. Arrivati però alla fase in cui ci troviamo oggi, occorre fare un salto di qualità, occorre mettere da parte i dogmi, occorre mettersi in testa che con il virus dovremo convivere almeno fino alla fine dell'anno scolastico, e occorre affermare con forza che se è vero che dobbiamo fare di tutto per non far morire di Covid i cittadini, è anche vero che dobbiamo far di tutto per non farli morire di fame. Il virgolettato delle parole di Angelo Miozzo. L'Italia soccombe se i numeri schizzano, ma soccombe anche se l'economia va a farsi benedire. Vi leggo qualche altro passaggio. Le scuole sono un posto sicuro, dice Miozzo. A scuola gli studenti sono distanziati, sono controllati, sono protetti, applicano il distanziamento, seguono regole precise. I problemi per gli studenti iniziano non quando entrano in classe, ma quando escono dalla scuola. E chi oggi pensa di chiudere le scuole dovrebbe capire che senza scuola i rischi per gli studenti, anche in termini di contagio, non diminuiscono, ma possono anche aumentare. Non penseremo mica che con le scuole chiuse gli studenti stiano a casa. Già, ma con i trasporti? Miozzo, pur ricordando che tra il 75% e il 77% dei contagi oggi avviene in famiglia, riconosce che sui trasporti non è stato fatto tutto ciò che sarebbe stato lecito aspettarsi. Su Il Foglio noi diamo spazio alla viabilità, proseguiamo tra pochissimo. In primo piano. Ed eccoci, continuiamo dalle pagine della Stampa. La Stampa titola tutta pagina: Covid fuori controllo, arriva il coprifuoco. Oltre 10.000 casi in un giorno, il governo prepara la serrata. In Piemonte vietata la vendita di alcolici dopo le 21. Vedete qui un altro orario. Certo che per girare l'Italia ci vorrà un prontuario, dovrebbero dare nelle autostrade qualche foglietto indicativo. Comunque, detto questo, c'è un'intervista al segretario della CGIL Landini. Sindacati pronti allo sciopero, il governo ci convochi, impedisca i licenziamenti. O potremmo superare, appunto. Poi questa intervista la trovate poi nelle pagine interne della Stampa, restando, eccola qua, da mesi ha smesso di confrontarsi con noi, denuncia il segretario della CGIL Landini, siamo pronti alla mobilitazione, è il momento di dire sì al salva stati, l'ultimo faccia a faccia tra esecutivo e parti sociali risale agli Stati Generali, con la seconda ondata questo non è sostenibile, dice Landini. Al centro pagina le vignette di Maometto in aula a Parigi, un 18enne decapita il professore, ne abbiamo letto poco fa, e qui ne scrive Leonardo Martinelli, è stato aggredito vicino alla scuola media dove insegnava storia per strada, un professore francese è stato sgozzato, decapitato da un giovane di 18 anni alle 17 di ieri, un pomeriggio all'apparenza come gli altri, a una cinquantina di chilometri nord-ovest da Parigi, non un sobborgo degradato ma una tranquilla area residenziale della vasta regione della capitale. C'è poi un'intervista al figlio del patron del Vecchio di Luxottica, Leonardo Maria del Vecchio, che annuncia: assumiamo nonostante il virus. Lui guida in particolare il ramo di azienda che conosciamo un po' tutti, Salmo Iraghi e Viganò. Intendiamo offrire 80 posti di lavoro a tempo indeterminato che dopo 6 mesi possono essere trasformati a tempo indeterminato, iniziativa rivolta principalmente alle scuole pubbliche dell'ottica. In più ci sarà un premio di ingresso, leggiamo, di 2.500 euro. Ve lo leggo perché una buona notizia dal mondo del lavoro comunque fa sempre piacere riceverla di questi tempi. Andiamo su Libero, tasse sulla prima casa, l'ideona di Gentiloni per pagare il Covid. Il nostro emissario a Bruxelles, dice Libero, propone alla Commissione europea di stangare i proprietari di appartamenti italiani. La sinistra ha un'unica ricetta in economia, imposte più alte. A leggere poi così il dettaglio, Fausto Carioti ne scrive: la risposta di Gentiloni in realtà è arrivata a un'interrogazione della parlamentare Silvia Sardone, che ha chiesto la Commissione intenda chiedere all'Italia di ripristinare la tassa sull'abitazione principale e se tra le sue richieste al nostro Paese ci sia l'introduzione di una patrimoniale. La risposta del commissario italiano Gentiloni è stata, scrive Carioti, tecnica e non rassicurante. Ha citato un'analisi fatta dall'esecutivo di Bruxelles, secondo cui, abolendo l'esenzione dell'IMU sull'abitazione principale con diversi gradi di progressività e utilizzando le entrate supplementari per ridurre la tassazione sul lavoro, si fornirebbero maggiori incentivi a lavorare, determinando ripercussioni positive sulla crescita economica. Così Gentiloni rispondendo a una interrogazione. E da qui poi dopo il titolo di Libero. Il Fatto Quotidiano, ora questi non parlano più, questo è il titolone, e questi che non parlano più sono i minimizzatori, come li chiama il Fatto Quotidiano. Hanno disinformato tutta l'estate, i dati ora li smentiscono. Ieri 10.000 infetti, nuove restrizioni in Lombardia, vertice notturno di Conte e i ministri. E questi che non parlano più, citati in particolare dal Fatto Quotidiano, sono ad esempio Alberto Zangrillo, Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi, Sabino Cassese, poi anche il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, Bassetti, e tutto un articolone su quelli che durante l'estate hanno così abbassato un po' troppo la guardia, secondo il Fatto Quotidiano, minimizzato, a seconda, ci sono diversi gradi ovviamente tra coloro che vi ho citato. Sul Giornale, prima delle chiusure arrivano le tasse, il governo rinvia le misure ma non le cartelle fiscali, in Lombardia limiti serali a bar e ristoranti, stop agli sport. Il commento pubblicato dal Giornale oggi a questa nuova ondata e nuove misure che vengono varate dalle regioni è firmato da Marco Zucchetti. Ne leggo qualche passaggio. Questo giornale è nato per difendere la libertà di pensiero dal conformismo e non sarà un virus a mutarne il DNA, ma pensare che davanti a 10.000 contagi al giorno e agli indici che si impennano non si debba prendere delle misure di contenimento non è liberalismo, è utopia o malafede. Abbiamo vissuto mesi di illusione collettiva, rimuovendo un po' irresponsabilmente il problema, bramosi di una gioia di vivere che era stata ingabbiata. L'autunno ci ha risvegliato bruscamente, i numeri dei ricoveri non lasciano più nessuno spazio per l'ottimismo. Per questo eventuali provvedimenti temporanei di salute pubblica, la chiusura anticipata dei locali, il divieto di assembramenti e movida, l'obbligo di mascherine, eccetera, sono non solo accettabili ma ineluttabili, scrive Zucchetti. Andiamo su Quotidiano Nazionale, il ritorno della guerra santa in Francia, al grido di Allah Akbar un ragazzo di 18 anni decapita un professore che aveva mostrato in classe le vignette di Charlie Hebdo, questo è il titolo che è stato scelto per l'apertura, al centro pagina la fotografia di due giovani sposi, Federico Codazzi e Francesca Corsi di 29 e 28 anni a Pavia, che in aprile avevano dovuto rinviare le nozze, si sposano alla faccia del Covid, scrive Quotidiano Nazionale. Poi c'è la loro storia un po' più romanzata all'interno, ma comunque ecco un segnale di fiducia che sceglie di dare il Quotidiano Nazionale, che però ricorda anche che il settore dei matrimoni è in profonda crisi. Persi oltre 20 miliardi, leggiamo, oltre 5.000 cerimonie tra matrimoni, comunioni, battesimi saranno annullati o limitati a pochi intimi, e quindi chiaramente di qui l'allarme. Il Manifesto, terapia d'urto, oltre 10.000 contagi in un solo giorno, l'allarme dei medici, terapie intensive vicine al collasso, in alcuni ospedali si accettano solo malati Covid, tra questi lo Spallanzani a Roma. Governo diviso sulla nuova stretta, il PD coprifuoco subito, Conte prova a resistere, scontro sulla didattica a distanza con le regioni. Ci ricorda poi il manifesto 180.000 sfruttati dalle ecomafie, un rapporto Fly CGL sui braccianti, Veneto e Lombardia, caporalato all'apice. Si sposta anche qui la linea della Palma. Vi ricordo il titolo di apertura del Messaggero, 10.000 contagi, ecco la stretta, il pressing del CTS sul governo per didattica a distanza nei licei e locali chiusi alle 22 e Avvenire, curva pericolosa. Impennata dei casi sopra quota 10.000 con 55 vittime, le regioni si muovono con nuovi divieti, il governo pensa al coprifuoco per le 22 e a quote di smart working obbligatorio anche per i privati. Privati che peraltro mi risulta già lo facciano, nel nostro caso sicuramente sì. Nei campi 200.000 schiavi, l'elemosiniere porta aiuti, è l'altro tema di apertura sulla prima di Avvenire, e anche qui, come sul manifesto, si ricorda il rapporto su agromafia e caporalato. Il cardinale Krajewski a Rosarno, che appunto ha portato aiuti ai braccianti colpiti anche, ovviamente, anche loro dal virus. Ci dobbiamo fermare qui con la rassegna stampa delle pagine dei quotidiani di oggi, le prime pagine. Purtroppo solo dei quotidiani di oggi. Ci ritroviamo alle 8.30 con Si può fare. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.